This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. Buonasera a tutti, siamo in diretta. Ciao ragazzi! Da lontano si sente Nicola. Buonasera a tutti e a tutti. Buonasera Nicola, a tutti, si avvicini, sì. Sì, si avvicini, si pure. Avvicini lì. Si avvicini, dottor Corria, si avvicini. Allora, che questa sera puntata anomala fino a un certo punto, perché parliamo del Mr. Iggy Pop, che insomma noi di solito parliamo di personaggi un po' meno conosciuti, ma negli anni 90, come tanti altri reduci dei 60s, 70s, Iggy Pop era un reduce, quindi considerato dagli adolescenti, quindi maggiori consumatori di rock and roll dell'epoca, un vecchio, c'è poco da fare, ma lui non mollava. Non mollava, ma di base era veramente, cioè, un implacabile di prima categoria, ma si vede anche gran fisico, gran prestanza e sul palco... Mai irriducibile, ecco, cioè non faceva sconti a nessuno. Beh, sicuramente un animale del rock, Iggy Pop, che oggi appunto tiriamo fuori un disco del 93, American Caesar, disco molto apprezzato anche dalla critica, e lui che comunque veniva dall'epopea Stooges e quant'altro, decise poi a un certo punto di fare la carriera solista con alternativi. Sì, successi insomma non sempre buone, però qualche disco bello come questo qua, American Caesar appunto, lo tirò fuori. Non mi toccare Hip Hop, Rosario, per favore. All across the continent, Eccoci qua in diretta, siete su Radio Storia del Capo, questo è This is Not an Exit. Stiamo parlando di Iggy Pop, abbiamo detto. È strano, ma ci piace ripescarlo perché adesso è veramente una star. Ma ripeto, nel 93 non era per niente, non c'era YouTube, non c'era solo MTV, quindi le cose non erano così, come dire, appiattite, potevi cercare tutto, e cose nuove, cose vecchie, indistintamente. No, le industrie discografiche soprattutto avevano tutto il vantaggio a rinnovare i cataloghi, a vendere cose nuove e via dicendo. E Iggy Pop si trovava, dopo 15 anni che, dopo il punk c'è poco da fare, lui è stato il primo punk, ma gli dicevano punk nell'accezione originale del termine, come dire sei feccia, perché fin dal 69, i primi concerti con gli Stooges, lui era realmente un animale da palcoscenico, perché insomma arrivava a gesti di autolesionismo. E ricordiamo che negli anni 60 la cultura dominante dei concerti era quella californiana, del flower power, degli hippie. Quindi lui era veramente considerato, come dire, un animale, nel senso anche più deteriore del termine. Non era come Jim Morrison, che faceva anche lui gesti osceni, ma, come dire, in maniera molto, estremamente più romantica. Ma d'altronde, Iggy Pop era cresciuto a Detroit e non a San Francisco. Detroit era una città operaia, proletaria, con forti tensioni razziali, e chi più ne ha chi ne metta. Ma questo è passato, non ci riguarda quasi più. Noi siamo nel 1993, anno di pubblicazione di American Caesar, e nel 1993 il nostro Iggy Pop ha la bellezza di 46 primavere. Le porta molto bene. Sì, decisamente. Un gran bel pischello. Niente, abbiamo preso un'intervista bellissima, secondo noi, tratta da Rumore, che in quegli anni scriveva di Iggy Pop, e intervistò l'Iguana presso un hotel a Milano, il giornalista che si chiamava... Alberto Campo. Alberto Campo, sì. Non è morto comunque il buon Alberto Campo, si chiama... Alberto Campone, magari è cresciuto, che ne so. Ok, niente, confesso, un po' ero emozionato. Anche se sono parecchi anni che faccio questo mestiere, anzi, proprio perché sono parecchi anni che faccio questo mestiere, mi accade sempre, più sovente, infatti, di intervistare ragazzotti più giovani. Alcune volte molto più giovani di me, dei fratelli minori, bene che vada. Con Iggy Pop, invece, si ristabilisce quello scarto generazionale con cui ci si confronta da ragazzini. Quando si fanno le prime interviste e ci si imbatte in personaggi più adulti, più maturi, più vissuti, chiamate la soggezione, che diamine, Iggy Pop. Quando lui cantava I Wanna Be Your Dog, io portavo ancora i calzoni corti. Rispetto, rispetto, mille volte rispetto. Ne contribuisce a sciogliere l'imbarazzo, la solennità pacchiana del Grand Hotel milanese, dove i giornalisti sono stati convocati per incontrare l'iguana, velluti e stucchi, le livree del personale e le 24 ore degli executive. We'll be right back. sempre su Radio Città del Capo, stasera in compagnia di Iggy Pop e il suo American Caesar. Perché American Caesar? Il titolo, insomma, dice un po' tutto. È una spicciola denuncia, perché negli anni 90 aveva deciso Iggy Pop di denunciare qualcosa, perché un po' si era rotto sempre di avere quella figura, quella nomea di tossico punk e quant'altro. Lui comunque aveva sciolto i Stooges, quell'epoca era già bella andata, e voleva appunto denunciare negli anni 90 quello che succedeva negli Stati Uniti, i nuovi Cesari, quindi gli Stati Uniti, no? E insomma i nuovi imperatori, i nuovi imperialisti, specialmente quello. Era appena finita la prima guerra del Golfo di Bush padre, e insomma Iggy Pop denuncia, insomma, quello che succedeva in America, il capitalismo sfrenato, quello che un po' anche i punk, insomma, della nuova ora denunciavano. Però lui, insomma, voleva dire la sua, anche se forse l'età era un po' passata rispetto magari ai punk di quel periodo. Insomma, lui voleva salire un po' sul carro dei denunciatori. E qui si è molto polemico Rosario, però diciamo che lui segnalava, secondo me, un certo stato di cose che tutti sapevano, ma che in troppo pochi rischiavano o volevano così evidenziare, mettiamola così. Penso che comunque sto discorso qui è poi ovviamente dovuto al puro capitalismo, insomma, di cui si è parlato e straparlato, chi ha torto, chi ha ragione, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che Iggy Pop, tornando all'intervista fatta un po' di anni fa, sale. Iggy Pop sta aspettando, eccolo là. Più piccolo e magro di quanto immaginassi, di quanto mi avessero fatto immaginare le fotografie, i concerti e tutto il resto. Ha l'aria febbrile, ma è nervosissimo e positivo. Il suo spizza energia da ogni poro. Tutto nervi e muscoli, dimostra molto meno dei suoi 47 anni. I movimenti sono stati bruschi. Porta di nuovo i capelli lunghi, come ai tempi degli Stooges, e gli occhi. Quegli occhi chiari, acquosi e dilatati, come lo sono soltanto quello dei tossici, destinati a rimanere tali anche quando si smette. Quasi una cicatrice emotiva, mentre armeggio col registratore e lui versa l'acqua nei bicchieri. Very straight edge, domando furtivo. Tu sei stufo di fare interviste? No, risponde, mi piace chiacchierare. La voce è profonda, un po' metallica. Ha una pacatezza che contrasta con le apparenze. Chiacchieriamo allora. Canzoni del nuovo album come Wild America, Mixing the Color, Caesar, sembra vogliono esprimere il tuo punto di vista sullo stato dell'Unione. Come ti trovi a vivere in America adesso? Beh, dice lui, mi sento davvero a mio agio soltanto quando sto nel mio appartamento di New York. Nel resto degli Stati Uniti non ci vado per scelta, ma per lavoro. Probabilmente dipende dal fatto che negli altri posti ho dovuto affrontare in passato un mucchio di pericoli. Ora che sono sopravvissuto e ho capito cosa mi sarebbe potuto accadere, diffido molto degli Stati Uniti. E poi mi sento molto solo e arrabbiato in confronto alla gente che di solito ho intorno. Sembrano quasi tutti ipnotizzati da questa idea di lusso posticcio, di falsa comodità. Thank you. Beh, lo ricordo, non l'ho detto prima. 348-7649-289. This is not an exit. Su Radio Città del Capo, se volete mandarci un messaggino, 348-7649-289. Stiamo sempre parlando di Iggy Pop, che in questi anni 90 finalmente era passato all'incasso. Eh sì, perché come diceva prima il dottor Scarpa, si era un po' stancato di fare il punk perdente, e dopo che dal punk in avanti tutti avevano il punk come categoria musicale, tutti, tanti avevano saccheggiato il suo modo di fare, soprattutto sul palco, il modo di suonare degli Stooges. Per 15 anni a un certo punto ho detto, beh, allora sfrutto l'onda, era l'epoca del grunge e ritorno alla grande. Vivendo invece in questo paese, giorno per giorno, è sempre più difficile trovare un po' di benessere e di gioia che secondo me rendono bella la vita. Non ho chissà quali pretese, mi piace avere una bella moglie, ecco, e poi mi piace incontrare persone che abbiano una loro personalità, diversa da tutte le altre, che si interessino per me, per quello che io sono e basta. E quando mangio, mi piace mangiare certe piccole cose particolari, niente hamburger, nemmeno quelle vegetariane di Hollywood dell'associazione Save the Planet. Non mi considero un divo rock, come molti altri miei colleghi fanno. Non è che mi senta molto a mio agio negli Stati Uniti. Perché non cambi? Perché non cambio paese? Per principio, ecco perché. Perché voglio farcela nel mio posto e alle mie condizioni, rispettando ciò che considero i miei valori. Il valore che sta in come faccio le cose e dimostrando che c'è un altro modo di essere oltre quelli soliti. Non voglio farmi cacciar via, essere costretto ad andarmene in qualche altro paese per vivere bene e dimenticare i miei problemi. Come dice Shakespeare, che tu vada o resti, dovrai comunque affrontare i tuoi problemi. Penso che sia proprio così, è meglio tirar dritto e affrontarli. A New York tutti sanno dove vivo, mi piace, c'è un gran traffico di persone e mia moglie non è che si sia soddisfatta, ma a me piace. Non faccio mai le cose che uno si aspetterebbe da me. 25 anni fa avresti pensato che ero una merda. 20 anni fa che ero una merda senza venire. Poi 15 anni fa hanno cominciato a suonare tutti come me e adesso lo fanno. Perciò voglio che la mia musica occupi il posto che le spetta in questa società. Detto questo, è la gente comune ciò che veramente mi interessa dell'America. Quando tornasti là, nel 1980, ricordo che parlasti bene di Reagan, ripensando adesso a lui e alla sua politica. Che opinioni hai? E di Bill Clinton che cosa ne pensi? Non ritratto le cose che dissi allora. All'inizio degli anni Ottanta ero piuttosto stanco e confuso. Volevo cominciare a andare avanti, darmi un giro e mettere la testa a posto. Allora trovavo deprimente l'idea di avere Jimmy Carter come presidente e vedevo che l'umore del paese era basso, non c'era attività economica, nessuno investiva in niente. La gente del governo veniva ai miei concerti col rilevatore acustico per misurare quanto il suono era più forte del lecito e a obbligarmi ad abbassare il volume. Così pensai che Reagan potesse creare un'atmosfera diversa. Non è che abbia cambiato chissà che quale amministrazione federale degli Stati Uniti, eppure creò l'atmosfera in cui ci fu più fermento. To go, body's red, mouth is whole, got the worst in the world, but this won't be hassle free. Lover's kiss in the heat, body crush, basement suite, mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere, change addresses, ditch that guy, don't pick up when he calls, run away every day, coffee beans and hideaways, they want these, they want those, first my nose, then my toes, presidents and super freaks, lighted dogs and love boutiques, afternoons waking up, neighborhood slouching stuff, drifters too, in a flow, nowhere they got to go, stand her girl with a dog, dressing cool, not too new, I wanna talk, I wanna know, what she feels and what she knows, huh?

that we're trying to colonize the world through business right now. This week we're doing it. Ecco l'aspetto positivo. Per il resto, ha finito per essere una farsa. Sapevo che non era un gigante sul piano intellettuale. Reagan. Scusate, torniamo all'intervista, insomma, che parlavamo appunto del pensiero che aveva Iggy Pop su Reagan. No, non è difficile intuirlo. No, vabbè, sul piano intellettuale, insomma, ha liberato delle forze che hanno reso le cose peggio di quando si era insediato. Ma non sono così sicuro che adesso Clinton sia il rimedio per tutti i mali. Anche se l'ho votato, sapevo che avrebbe vinto e volevo dare il mio contributo. Ha vinto anche grazie ai DJ e ai raduni politici in cui si suonavano Fleetwood Mac e Beach Boys. La sua trovata più brillante è stata quella di comparire su MTV. È un uomo che esprime vigore e lealtà, all'aria di un tipo semplice, così sembra, anche leggendo alcune delle cose che ha fatto in passato. Credo però che il genere di mutamenti che mi piacerebbe vedere nel paese non possa partire dal vertice. Penso che la cosa migliore e più rivoluzionaria che sta avvenendo in America siano i cambiamenti demografici, l'espandersi della comunità ispanica, anzitutto, e poi cubani, colombiani, messicani, e la prima ondata migratoria fatta di gente organizzata ed efficiente, quanto i bianchi. Il colore del paese sta cambiando in meglio. Una delle ragioni per cui continuo a vivere dove vivo è che intorno ho un sacco di ispanici. Così ho portato di mano alcune delle cose che mi piacciono, andare nei loro bar dove fanno il caffè fortissimo, per esempio. Posti dipinti in giallo e arancione, con le insegne rosso fuoco. Mi piacciono posti così. Thank you. Okay, good question. That was written. Iggy, dicono che con l'andare degli anni si diventi più tranquilli e saggi. Nel nuovo disco, invece, tu esprimi sentimenti forti come l'odio e la gelosia. Sei ancora arrabbiato? Bah, risponde Iggy, sono senz'altro più calmo di quanto fossi un tempo. Quando non lavoro, conduco una vita estremamente tranquilla. Guardo molto MTV ad alto volume, leggo parecchio e curo le piante. Chi l'avrebbe mai detto? Iggy Pop, no? Giardiniere. Col pollice verde. Pollice verde. Continuiamo la lettura. Quelle sono però sensazioni che provo intensamente, perciò ne ho scritto. La differenza tra quando ero giovane e adesso sta nel fatto che a 20 anni non avrei scritto in modo esplicito. Sarebbe venuta fuori una canzone come Your Pretty Face Is Going to Hell di Raw Power. C'era una ragazza con cui uscivo e che mi aveva fatto infuriare. Ecco allora che dico, pensi di essere bella, ma non sarai bella per sempre. Adesso, 20 anni dopo, una ragazza simile c'è nella seconda parte di Julius, bella, ricca e aristocratica, nata con tutte le fortune, un'auto e un grande giardino. Ma questa volta lei non è l'oggetto della poesia. Questa volta è il sentimento in sé che mi interessa. Qui sta la differenza. Adesso posso rendermene conto. Dio mio, sono geloso. Autoanalisi più che altro. Yeah, okay, we're on. è in hate l'odio contro chi è rivolto. Nel primo verso, quando parlo di uno sguardo cattivo che mi dice di andare a fanculo, o da parte di chi non mi tratta mai con dolcezza, penso di raccontare una situazione in cui tutti si trovano prima o poi. Qualcuno che ce l'ha con te, particolarmente se esercita del potere. Ecco una cosa che mi spinge a provare odio, una delle sensazioni più forti di cui si possa scrivere. Come ascoltatore detesto sentire canzoni a chi canta sembra che non freghi niente di nulla. Vedendoti dal vivo, l'impressione è che tu sia più giovane dell'età, della tua età anagrafica. Ma come ti mantieni in forma, nel corpo e nello spirito? Non mi sento particolarmente giovane. Ma se c'è una cosa importante per me è esibirmi dal vivo. Mi piace e per me è fondamentale farlo meglio che posso. È una forma di rispetto per chi viene ai miei concerti in cerca di energia fisica ed emotiva. Mi concerto più che posso su ciò che faccio, tutto lì. Ho più energia ora di quanta ne avessi 10 anni fa. Adesso sono molto disciplinato, lavoro sodo, sulla voce e in modo particolare. Perché a questo punto della carriera sarebbe vergognoso se non avessi una bella voce. Pensa all'imbarazzo, se la gente vedesse un tizio saltare sul palco e pensasse: Cristo, ha 47 anni, si agita come un matto, ma deve ancora imparare a cantare. Adesso so cantare. Ma i progressi più grandi, negli ultimi 3 anni, li ho fatti come compositore. Adesso posso prendere la chitarra e mettere giù una canzone da cima a fondo, suonare gli accordi e costruire la melodia. Tutto da solo. Era il mio sogno da sempre, quello di scrivere canzoni per conto mio, e adesso ce l'ho fatta. Un'altra cosa piacevole è che ho più successo ora di quanto ne abbia mai avuto. Questa è un'altra fonte di energia. E poi mia moglie, una persona straordinaria, che è la mia arma segreta. Come ti poni rispetto al grunge, giovani gruppi che suonano rock duro e grezzo come gli Stooges? Non penso ci siano solamente gli Stooges nel grunge. Sento che gli Stooges sono uno dei gruppi preferiti di alcuni dei musicisti, uno dei gruppi, non l'unico. Ascoltando i Nirvana sento i Black Sabbath e molto dei Beatles. Lo stesso con gli Alice in Chain, frammenti di Beatles nelle melodie e nelle armonie. C'è anche molto delle Zeppelin nelle tecniche di registrazione, soprattutto nella sezione ritmica, nei Soundgarden in modo particolare. And now the news. Go now. after Bush and Gorbachev. The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie. Nel 1977 pubblicasti The Idiot, un disco che piacque ai punk. Pensi che American Caesar sarà apprezzato dal pubblico grunge? Non so, perché dici che The Idiot è piaciuto ai punk? A me non sembra, forse 10 anni dopo. Ma in Inghilterra andò in classifica, è vero. Ma chi può dire chi l'ha comprato? Beh, penso anche ai punk. Allora mettiamola così, non mi sono mai reso conto se a chi sarebbe piaciuti i miei dischi. Anche adesso, chissà se American Caesar piace ai grungers. Posso soltanto augurarmelo. Che effetto ti ha fatto il ritorno dei Velvet Underground? Hai in mente la ricostituzione degli Stooges? No, non ci penso, anche se una parte di me piacerebbe rimetterli insieme. Ma c'è l'altra parte di me che dice non guardare al passato. Ciò implica un giudizio critico sulla ricostituzione dei Velvet? Non è che abbia un'opinione precisa. Quando venni a saperlo, la prima cosa che pensai fu: avranno un suono pulito e di grande qualità. Avevo visto da poco concerti di Lou Reed e John Cale ed erano stati eccellenti. Dunque mi aspettavo qualcosa del genere, molto rifinito tecnicamente. Sì, ma lo spirito è morto. Tutto quello che posso dirti è che non ho avuto l'impulso irresistibile di andarli a vedere. Non li avevo visti allora, ma ne avevo percepito lo spirito. Sì, forse hai ragione. Trovo un po' grottesco che Lou Reed adesso, Heroin e Waiting for the Man, lo canti adesso. Dipende da cosa significa per te le canzoni, quale motivo ti ha spinto a scriverle. Personalmente dal vivo canto canzoni di periodi diversi, non mi faccio dei problemi, ciascuno risponde per sé. Il periodo dei Velvet e degli Stooges fu quello in cui il rock scoprì le droghe pesanti. Ora tu esprimi sensazioni contraddittorie sull'argomento. In character sostieni che alcuni di quei tossici avevano carattere, mentre in Perforation Problems descrivi il tunnel della tossicodipendenza. Se potessi tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto con le droghe? Beh, dice Iggy, se potessi tornare indietro non mi impiccerei di quella vita. Lascerei fare a Iggy tutto quello che ha fatto. Per essere onesto, dopo la prima volta smisi divertente, ma che botta. Quella volta mi feci e poi ascoltai in cuffia Freak Out dei Mothers of Invasion. Store on 9th Street. she's going. Those old clothes and that new body. With just a little hint of dirt in her eye. And cracks starting to show through the makeup. But the girl's got character. The girl's got soul. That's the kind of girl I wanna know. Avete ascoltato le interviste impossibili di This Is Not an Exit. Vabbè, con questa vi salutiamo, sono le 22 e 28 minuti primi, vi lasciamo al giornale radio. Buonasera a tutti e a tutti, buonasera e grazie ai nostri intervistatori d'eccezione, dottor Scarpe, dottor Corrias. Beh sì, buonasera a tutti, possiamo soltanto dire lunga vita a Iggy Pop. Grandi.